Fujiko Live Club. In studio Nevio Bencivelli. Ciao a tutti, Nevio al microfono, dopo qualche settimana di riposo, si fa per dire, ritorna in voce, ritorna live Nevio e la sua città Fujiko Live Club, un paio di ore di musica registrata dal vivo ufficiale di tutte le epoche e di quasi tutti i generi, ogni mercoledì dalle 10.30 in poi. E come sempre anche dopo questa ripresa Città Fujiko Live Club inizia con una novità e oggi abbiamo una novità, anzi ho dimenticato di dire che naturalmente ci trovate sui 103.1 MHz in modulazione di frequenza stereofonica, nonché sul web con l'apposita app che potete tranquillamente e gratuitamente scaricare dal sito cittafujiko.it. E anche nelle province limitrofe, quella bolognese, sul DAB che è in continua espansione. Poi chi ne sa più di me naturalmente ve ne parlerà nel migliore dei modi. E vi dicevo che, come sempre, Città Fujiko Live Club inizia con una novità. Oggi abbiamo una novità da parte di un gruppo che, secondo me, è stato molto sottovalutato nel corso degli anni, perché loro sono attivi dal 1984, si sono sciolti temporaneamente, come capita spesso, nel 1991, poi si sono riformati nel 1996, e sono tuttora vivi e vegeti, come dimostra la novità che vi propongo quest'oggi, un album che si chiama Live the Cranford Arms. La band è quella di, con un nome bellissimo secondo me, si chiama The Man They Couldn't Hang. È una band sicuramente nata sulla scia dei Pogues, cerca di unire il folk britannico tradizionale con la musica rock, con la musica punk in certi casi. Ha avuto alti e bassi nel corso della carriera, ma sono sempre ad un livello più che decente, più che notevole, oserei dire. Fra l'altro il nome che vi dicevo, The Man They Couldn't Hang, cioè coloro che non poterono impiccare, è riferito naturalmente a John Babcock Lee, personaggio del secolo, di due secoli fa ormai, che fu condannato a morte, ma per tre volte il patibolo, l'impiccagione non riuscì per motivi tecnici, e la legge britannica dice che in questo caso l'uomo è libero, e quindi Babcock Lee fu liberato. Il nome appunto si riferisce a quell'uomo. E fra l'altro The Man They Couldn't Hang li abbiamo visti anche qui a Bologna nel 1987, tantissimi anni fa, ai tempi d'oro del Cubo, quando c'erano concerti a go-go, anche rima fra parentesi. Hanno fatto nel corso di tutti questi anni 4 album live, questo Live The Cranford Arms è l'ultimo, è un combo, cioè c'è il CD più il DVD, ma non è che siano dei ragazzi splendidi da guardare, però suonano veramente alla grande. È stato registrato in questo pub, appunto il Cranford Arms, a Milton Keynes, che è un sobborgo, diciamo, facente parte della Greater London, il 4 ottobre del 2024. Sono tutti brani, secondo me, molto accattivanti, molto interessanti, ma quello che vi propongo, vi ho già proposto qualche tempo fa, è un brano che mi piace tantissimo e che non è loro, è stato scritto da Harry Bugle, che è lo stesso che ha scritto un altro classico che si chiama Waltz in Matilda. È la storia del protagonista della canzone, che è sulla tomba di questo soldato britannico morto in Francia e che dialoga con il defunto e si fa spiegare la sua storia. Il brano si chiama The Green Fields of France e loro invece si chiamano The Man They Couldn't Hang. Willie McBride, Young Willie McBride, I can't help wondering. No satellite, no white day dies. Did they believe when they answered? Do they really believe that this war could end? All the sorrow, the suffering, the glory, the pain. All the killing and all the dying, it was all done. The young Willie McBride, oh, it happened again. And again, and again, and again, and again. Did they meet and run slowly and play the part lonely? Down the death march to the Lord's down. The pipes play the flowers of the fire. La storia del soldato McBride che morì nei verdi prati di Francia, un brano secondo me bellissimo, si chiama The Green Fields of France. Loro sono The Man They Couldn't Hang, ultimo album live uscito di recente, si chiama Live the Crawford Arms ed è stato registrato il 4 ottobre del 2024 da parte di questa ottima band. E questo verde, questo prati, questi prati verdi francesi mi hanno dato l'idea di omaggiare il colore verde nella prima parte della trasmissione, per cui ci ascolteremo brani che parlano di verde in tutti i sensi. Il verde può essere declinato in tantissime espressioni, dalla speranza, dall'età, dal colore, un po' di tutto. Per cui ci ascolteremo questi verdi in questa prima parte della trasmissione, ad iniziare da una band assolutamente sconosciuta ma che è in attività negli Stati Uniti naturalmente e soprattutto a Tempe, Arizona, che è la loro città di provenienza. Dicevo, è attiva dal 1998, la tipica bar band americana, suona quasi tutte le sere, praticamente tutte le sere, se vuole sopravvivere nei bar più malfamati si dovrebbe dire, ma anche in teatri, e ogni tanto fa qualche disco. Si chiamano Roger Klein and the Peacemakers, hanno fatto, come dicevo, decine e decine, anzi migliaia direi, di concerti per tutti gli Stati Uniti, principalmente in Arizona naturalmente, e sono appassionati di baseball, tanto che hanno scritto l'inno degli Arizona Diamondbacks, che è la squadra di baseball di Tempe, Arizona, appunto, di Phoenix in generale. Tempe è un sobborgo di Phoenix. E hanno fatto 3 album dal vivo, questo è il primo che vi propongo, si chiama Real to Real. È stato registrato, guarda caso, al Green Room di Tempe, appunto in Arizona, il 14 e il 15 maggio del 1999. Si chiama Green and Dumb, dove Dumb sta per muto stupido, scegliete voi quello che volete. Green and Dumb, Roger Klein and the Peacemakers. Themselves in the sky, and all the horses come running to her. Even the dust devils pray they'll catch her eye. Her house from the outside, I watch her bake cornbread and talk on the phone, and the wireless on the inside plays a sad sweet song. A mute moonlit statue am I, she waltzes alone. So empty in the head and tied up in the tongue. And baby, baby, I could call you baby if I weren't so green and dumb. The wind ain't stopped this morning, it's got me froze up on the inside. The dark shook it warm in the bunkhouse. The thaw out on coffee and bread. They won't burn your wheat. Your paycheck won't fill up this hollow. It won't die long. Baby, baby, looks the same as I step down from that train. There to meet me was my mama and my papa. Down the road I look, and there comes Mary, hair of gold and lips like cherries. It's good to touch the green, green grass of a home. Yes, they'll all come to meet me, arms reaching, smiling sweetly. It's good to touch the green, green grass of a home. The old house is still standing though. The paint is cracked and dry. There's that old oak tree that I used to play on. Down the road I look, and there comes Mary, hair of gold and lips like cherries. It's good to touch green, green grass of a home. Yes, they'll all come to meet me, arms reaching, smiling sweetly. It's good to touch the green, green grass of a home. And I awoke and looked around me at the four gray walls that surround me, and I realized that I was only dreaming. For there's a prison guard in that sad old padre. Arm in arm, we're gonna walk down at daybreak, and again I'm gonna touch the green, green grass of a home. Yes, I will. They'll all come to meet me as they lay me neath that old oak tree. And again I'm gonna touch the green, green grass of a home. Yes, I will. They'll all come out to meet me as they lay me neath that old oak tree. And again I'm gonna touch the green, green grass of home. Storia particolare quella di Mike Ferris, chitarrista e cantante che arriva dal Tennessee. Ha fondato negli anni 90 una band che si chiamava Screaming Cheetah Willies, una band molto roccheggiante nel senso sudista del termine, e nel 2001 ha sciolto la band e ha iniziato una carriera solista che ha virato verso il rhythm and blues e il soul. Ha fatto due album dal vivo come solista. Questo è accreditato a un sacco di gente, nel senso che è accreditato a Mike Ferris and the Roseland Rhythm Review featuring McCreary Sisters, quindi una mega band. Però il finale, come avete sentito, di questo Short Live, ottimo album che è stato registrato allo Station Hill di Nashville, la sua città di provenienza, durante quattro notti fra ottobre e novembre del 2008. E appunto questo album finisce in solitaria, Mike Ferris da solo con la chitarra a eseguire questo super hit, questo super classico della musica americana che si chiama Green Green Grass of Home, una canzone molto vecchia, la verde prateria in pratica di casa. This is coming from the edge of the deep green sea. Spero vivamente di non avere bisogno di dire che questi erano i Cure, la loro musica, ma soprattutto la voce del leader Robert Smith è assolutamente inconfondibile. Loro hanno fatto un sacco di album dal vivo, del resto sono attivi dal 1976, quindi questo ci sta. Fra parentesi, il loro ultimo album di studio, che si chiama Songs from of a Lost World, ha avuto un successo planetario veramente incredibile e se lo merita. Qui abbiamo uno dei tanti album live di quale parlavo in precedenza, si chiama semplicemente Show ed è stato registrato al Palace di Auburn Hills, che è un sobborgo di Detroit, il 18 e il 19 luglio del 1992, quindi siamo in questi giorni, oramai tantissimi anni fa. L'album, come dicevo, si chiama Show, il brano che parla di verde, parla di un mare, un profondo mare verde, si chiama From the Edge of the Deep Green Sea, loro erano Cure. E un giorno farò una prima parte di trasmissione, quella che ha sempre un motivo, un filo che lega i vari brani. Farò, dicevo, una prima parte della trasmissione dedicata ai gruppi i quali componenti si sono dati nome di fratelli. Viene in mente, tanto per essere esplicativo, naturalmente i Ramones sono i primi in questo genere, ma poi ci sono anche i Ween, la band che ci andremo ad ascoltare adesso. È un duo che viene dalla Pennsylvania, si fanno chiamare Gene Ween e Dean Ween, erano appunto inizialmente un duo. Poi la band è diventata un quintetto più o meno stabile. Sono stati fermi dal 2012 al 2015 per motivi soliti, fra virgolette negativi, per quel che riguarda le star della musica rock, vale a dire droga e alcol, da parte di uno dei due Gene. Mentre dal 2024 sono in hiatus, non sono sciolti ma sono fermi, perché l'altro, Dean, ha dei problemi di salute mentale, quindi non va propriamente molto molto bene. Hanno fatto 7 album live nel corso della loro, discografia. Quello che ci andiamo ad ascoltare è stato registrato a Chicago, al Vic Theater, l'8 e il 9 novembre del 2003, guarda caso si chiama Live in Chicago. E loro ci parlano di un signore che si chiama Buckingham, Buckingham Green, appunto, loro si chiamano Ween. A child without an eye. Made her mother cry. Child clean on Buckingham Green. The children saw the eye as a sign from God descending from the sky. It was all right to dream of Buckingham Green. Thank you. E anche questi spero vivamente non abbiano bisogno di presentazioni. Si chiamavano Creedence Clearwater Revival, o almeno si chiamavano così dal 1967, visto che loro come band erano attivi dal 59, ma con nomi diversi. Loro venivano da El Cerrito in California, con John Fogerty, leader della band, grande grande personaggio. E pochi però si ricordano che i Creedence Clearwater Revival sono stati a Woodstock, anzi hanno chiuso Woodstock prima di Jimi Hendrix, e sono stati i primi, la prima band che è stata ingaggiata per suonare a Woodstock, perché all'epoca avevano un successo strepitoso. La loro stagione di gloria, di grazia, fu nel 60, dal 1969 al 72 e al 71, diciamo, nel quale infilarono una serie di album e di singoli sempre al top delle classifiche. E appunto il brano che ci siamo ascoltati, Il Fiume Verde, Green River, è stato tratto dal Live at Woodstock che i Creedence Clearwater Revival hanno, o chi per loro, per meglio dire, hanno pubblicato in tempi recenti, qualche anno fa. Non sono stati nel film, ma anche nella prima edizione, il doppio long playing che si chiamava Woodstock, appunto, Tre giorni di pace, amore e musica, e perché loro non vollero. Appunto erano al top della fama, non gliene fregava niente, e non hanno dato il consenso per l'uso sia della musica che dei video. Però questo brano, poi, come dicevo, che è stato pubblicato in Live at Woodstock in tempi recenti, è stato registrato il 17 agosto del 1969 e si chiama, come ho già detto, Green River. Stavolta andiamo a parlare di un gentleman verde, sarà un marziano, non si sa. Dead Grim Gentleman, il brano che ci andremo ad ascoltare, da parte di una band che viene da Las Vegas, Nevada, che è stata attiva dal 2004 al 2023. Si chiamavano Panic at the Disco, spesso e volentieri con il punto esclamativo dopo Panic, quindi Panic a The Disco. Si vede che c'erano dei problemi come quelli che ci sono stati con Rinaldo qualche anno fa. E comunque loro partirono come un quartetto e poi gradualmente, a forza di defezioni, sono diventati il progetto solista di Brandon Urie, il cantante e chitarrista. Come dicevo, sono durati fino al 2023, ma proprio qualche settimana fa Urie ha programmato un concerto in ottobre. Vedremo se sarà una tantum oppure se sarà un sintomo di una riproposizione nel nome, appunto, Panic at the Disco. Live in Chicago, il brano da cui è tratto il brano che ci andremo ad ascoltare, è stato registrato al Congress Theater di Chicago il 23 e il 24 maggio del 2008. Dead Green Gentlemen, loro sono Panic at the Disco. They don't have to be pretty odd. They don't have to be musical bad. So it seems I'm someone I've never met. You would only hear these elegant cries, but on your ears are criminal dimes. They spill the blood from a pretty mouth. When everybody gets there, everybody gets there, and everybody gets their way. Change for me, that's okay. I feel the same. I'm on my way, and I'll say things have changed for me, and that's okay. I wanna go where everyone goes. I wanna know what everyone knows. I wanna go where everyone feels the same. I never said I'd leave the city. I never said I'd leave this town. Rolling out wheels and tore down. When everybody gets there, everybody gets there, and everybody gets their way. I never said I missed you when everybody kissed her. I'm the only one to blame. change for me, but that's okay. I feel the same. I'm on my way, and I'll say things have changed for me, but that's okay. I feel the same, and I'll say. I said the same thing changed for me. Don't want everybody that's that's a me. I'm all singing it all night long. Erano Panic at the Disco, il brano si chiama Dead Green Gentleman, tratto da Live in Chicago, album che vede uniti CD e DVD. Do you know what jazz hands are? Yeah. A concludere questa rassegna di cose verdi, diciamo così, arriva una band che si chiama Mostly Autumn, una band che arriva da York, Gran Bretagna, ed è attiva dal 1995 sotto la guida di Brian Josh, cantante e chitarrista, che ha il vezzo di avere sempre nella band anche una voce femminile. Alcuni lo chiamano progressive, ma vediamo un po' di lasciare stare queste catalogazioni, non mi viene neanche da dire. Hanno fatto un sacco di album live, questo è Storms Over London Town, è stato registrato alla Storia di Londra, locale che purtroppo non esiste più, il 4 giugno del 2005. E a concludere questa rassegna arriva il cielo verde, Out of the Green Sky, loro sono Mostly Autumn. without telling why. Why I feel so lonely. I think it's time I die. Oh, why everybody told me it'd be my downfall in the end. Now it looks as though I've lost my only old friend. So don't pass me by. Finale di concerto per The Man They Couldn't Hang. Siamo al Crawford Arms di Milton Keynes, un sobborgo di Londra, come vi ho già detto. E questo è contenuto, il concerto di quell'occasione è contenuto in questo nuovo album live che vi presento come novità oggi da parte di The Man They Couldn't Hang. CD più DVD e tutto registrato il 4 ottobre dello scorso anno, quindi piuttosto recente. Uno dei classici, tra virgolette, di questa band si chiama Night to Remember, conclude il concerto, poi c'è il bis, che è un altro brano che si chiama Walking Talking, ma a noi interessava appunto questa A Night to Remember. Come sempre è stata la novità che vi propongo in trasmissione a iniziare la seconda parte di Città Fujiko Live Club. Siamo al 9 luglio 2025, fortunatamente siamo forniti anche di aria condizionata, anche se oggi non ce n'è bisogno, ma comunque è un benessere che fa sempre bene a noi programmatori. Ma andiamo avanti con Record Today, la rubrica che è sempre inserita all'interno di Città Fujiko Live Club, che si propone di farvi ascoltare i brani nel corso della giornata in cui sono stati registrati. E oggi iniziamo dal 1976. In quell'anno uscì il primo singolo di una band della quale si chiacchierava molto. Più che un singolo era un extended play e aveva la particolarità di essere dal vivo. La band era quella di Eddie and the Hot Rods, venivano da Canvey Island nel Sussex e erano attivi dal 1975, quindi dall'anno prima. Una band che è stata a volte catalogata come punk, a volte come pub rock, ma era una band essenzialmente rock, e lo dimostra appunto il loro primo singolo, che come dicevo era dal vivo, il loro primo EP, con quattro brani, praticamente uniti in medley, tutti grandi grandi classici. Nella prima parte c'era 96 Tears, Get Out of Denver, nella seconda invece quelli che ci saremmo ad ascoltare e che mi vergogno addirittura di dire. Il tutto è stato registrato al Marquis di Londra il 9 luglio 1976, Eddie and the Hot Rods. Thank you. Move all these chairs, no one a minute. Get up, move them all, I can't have chairs in the audience, so get them away. Get them out of here! She vecchio motto dice che chi ben comincia a metà dell'opera, e Eddie and the Hot Rods iniziarono la grandissima con questo extended play che si chiama semplicemente Live EP, e però non hanno avuto il successo che meritavano. La cosa mi dispiace molto, sono una delle mie band preferite, e sono tuttora vivi e vegeti, anche se non c'è nessun membro originale. Barry Masters, che era l'unico rimasto della formazione iniziale, ci ha lasciato nel 2019, gli altri hanno proseguito, ma erano arrivati tempo per tempo nell'ambito della band. Questo lo dirò, ma erano Gloria Satisfaction uniti in medley al Marquis di Londra il 9 luglio del 1976. Look out, look out. E arriviamo al 1986, 10 anni esatti dopo. Chi segue anche marginalmente la musica sa che la prima quindicina di luglio è il tempo del Montreux Jazz Festival, che di jazz oramai ha veramente pochino. Negli ultimi anni sono uscite parecchie cose dedicate al festival, musicisti su musicisti, gruppi su gruppi. Oggi ce ne andremo ad ascoltare due. Uno è questo, che si chiama un bluesman vero, che si chiama Otis Rush, uno della vecchia guardia, che purtroppo ci ha lasciato nel 2018, ma aveva già lasciato le scene musicali nel 2003 perché aveva avuto un infarto. Lui veniva come da regolamento dal Mississippi, da una città che si chiama Philadelphia, che però non è quella della Pennsylvania ma quella del Mississippi. È stato uno dei creatori del blues moderno di Chicago, quello elettrico, e ha fatto un sacco di album live. Questo live di Montreux 1986 è stato registrato nella bellissima cittadina sul lago in Svizzera il 9 di luglio del 1986. L'ultima parte del concerto vede Otis Rush accompagnato da Luther Allison, altro grande bluesman, e da Eric Clapton, altrettanto grande bluesman. Il brano che ho scelto per voi, e questa è una cosa di parte, vede appunto Otis Rush in compagnia di Eric Clapton in un brano che si chiama All Your Love I Miss Loving. Era il 1986. Love you, baby. Eric Clapton. Dopo l'ascolto di questo brano, dire che Otis Rush è uno dei maestri di Eric Clapton risulta abbastanza semplice. E il brano è uno dei classici di Otis Rush, si chiama All Your Love I'm Misloving, appunto suonato insieme al suo discepolo Eric Clapton. Era il 9 luglio del 1986 in quel del Montreux Jazz Festival in Svizzera. Rimaniamo sempre a Montreux, però 11 anni dopo, siamo nel 1997. Gary Moore è stato nella cittadina svizzera un sacco di volte e molte di queste sono state pubblicate. Addirittura c'è un cofanetto, quello da cui ho tratto il dischetto che ci andremo ad ascoltare, che è quintuplo e racchiude appunto diverse annate della partecipazione di Gary Moore. Poi ce ne sono un altro paio che invece sono singoli, sempre di concerti a Montreux di Gary Moore, questo grande chitarrista che veniva da Belfast, Irlanda del Nord, e iniziò la carriera con una band che si chiamava Skid Row, non quella americana chiaramente, ma una band nord-irlandese, e poi entrò e uscì diverse volte dai Thin Lizzy del suo amico Phil Lynott. La carriera solista è stata un po' di alti e bassi, perché a un certo punto si diede all'hard rock e non fece grandissime cose, ma poi è tornato al blues e ha fatto grandi cose. Purtroppo ci ha lasciato ormai diversi anni fa. Questo cofanetto si chiama Essential Montreux, sono 5 CD come vi dicevo, con praticamente la maggior parte degli show che Gary Moore ha fatto a Montreux. Il brano che ci andiamo ad ascoltare è stato registrato il 9 luglio del 1997, quello che apre questo dischetto, che è il terzo del cofanetto, si chiama One Good Reason. Take me out of here, this place is getting much too small. Make me disappear, vanish through the nearest wall. Give me one good reason why I should stay. Give me one good reason to go on this way. Give me one good reason why I should stay. Take me out of here, this place is closing in on me. Make it disappear, somewhere else I wanna be. Give me one good reason why I should stay. Give me one good reason to go on this way. Give me one good reason why I should stay with you. Thank you.

Nell'ambiente musicale circolano molti pazzi, naturalmente nel senso benevolo del termine, ma Omar Rodriguez Lopez, che suona la chitarra, e Sidik Bixler Zavala, che è il cantante, picchiano veramente forte. Sono due magnifici musicisti molto molto particolari, molto strani, e hanno fondato prima una band che si chiama The Drive-In e poi hanno formato questi Mars Volta che ci siamo ascoltati. Loro vengono da El Paso. Mars Volta sono stati attivi dal 2001 al 2012 e poi si sono riformati nel 2019 fino ai giorni nostri. È un misto musicale molto molto strano, molto accattivante secondo me, molto coinvolgente, un po' anche progressive volendo proprio esagerare. Hanno fatto solamente un album ufficiale dal vivo, ma quello che ci siamo ascoltati invece è un promo. Sono quattro brani, anche se durano praticamente tre quarti d'ora, e quattro brani che sono stati registrati all'Electric Ballroom di Londra. Infatti il promo si chiama Live at Electric Ballroom, il tutto il 9 luglio del 2003. Il brano che ci siamo ascoltati è quello che inizia l'album, si chiama Eria Takarka o qualcosa del genere. Da questo duo, che poi naturalmente in concerto si circonda di altri musicisti, che spesso e volentieri canta anche in spagnolo, in messicano si dovrebbe dire, ma comunque loro si chiamano Mars Volta. Calmiamo un po' le acque con un personaggio che sembra molto posato, ma in realtà è un personaggio molto coinvolto politicamente per quel che riguarda la sua Irlanda. È uno dei maggiori folk singer della cosiddetta Terra Verde, si chiama Christy Moore, molto molto importante dal punto di vista musicale ma anche dal punto di vista sociale. Infatti è stato anche, fra parentesi, più volte arrestato con una scusa o l'altra dalla polizia britannica, soprattutto andando e tornando fra Irlanda e Gran Bretagna. Nel 2001 addirittura il servizio postale irlandese gli ha dedicato anche un francobollo, e questo è sinonimo di grande grande stima da parte dell'establishment irlandese. Ha fatto tantissimi album live, molti in solitaria, questo è uno di quelli, almeno in due parti, una parte è in solitaria e l'altra con un quartetto. Si chiama On the Road, è stato registrato a Killarney, anzi è stato registrato in diverse occasioni, ma questo in particolare è a Killarney in Irlanda, molto vicino al confine con l'Irlanda del Nord, e ci racconta di un weekend ad Amsterdam. Lui si chiama Christy Moore, era il 9 luglio del 2016, weekend in Amsterdam. Well, I've decided that next year I'm going to enter in the Flack Hall unaccompanied singing. Modern songs unaccompanied, so if you have any pull with Kjol, just put in a word there. So this is my entry. When we got our redundancy, myself and the boys went on the spree. I had a brand new passport in me hand as we took off for the Netherland. Myself and Dinny and Dwyer and Scott, at Schiphol we were all half cut. We opened up the duty free, oh, the red lemonade and the brandy, and we jumped on board a tram. Oh, the weekend that we spent in Amsterdam. Our first stop was the coffee shop. In we went and we all sparked up. There was hashish there from Pakistan, from Morocco, Nepal and the Lebanon. All the boys there was rolling joints. Some of them forgot to drink their pints. The water pipe came bubbling around. As I took one pull and I hit the ground. Lads, wake him if you can. Oh, the weekend that we spent in Amsterdam. Then we all went to Mulligan's for the night. Oh, the bar was leppin', but the band was shite. Oh, the Burg and the Bono and the Wolf Tones, until Dinny grabbed the microphone. And then we went to the Blarney Stone. Paddy Wynn had the Leinster final on. The Lily Whites and the Boys in Blue on a 96-inch plasma. Be jez, will you look at Marty Morrissey's tan? Oh, the weekend that we spent in Amsterdam. Oh, then Macker, he says, while we're here, sure we'll go and have a look at all the kinky gear. I said a quiet prayer, I wouldn't bump into anyone from Kildare. Oh, there was big dildos, blow-up dolls. There was snap-on tools and hairy balls. There was vibrators, there was whips and chains. There was zips and fanny ticklers. Oh, God, between us and all harm. Oh, the weekend that we spent in Amsterdam. Oh, and then we went on a midnight walk. All our eyes were out in stocks. There was gay bars, there was bordellos, there was models in the windows wearing no clothes. And Dinny, he danced all night with a South American transvestite. Everything was going grand until Dinny tried to drop the hand. Yes, there was pandemonium. Oh, the weekend that we spent in Amsterdam. Oh, the bouncer, she was 5'10". She was a lowland heavyweight champion, and she hit Dinny a waffle box. Bejez, the boys ran amok and they wrecked the shop. We could hear the squad cars getting near. It's time, lads, we got out of here. Oh, Dinny pulled up his tights and we disappeared into the night. All together now, one by one. Oh, the weekend that we spent in Amsterdam. Oh, Queen Beatrix, she rides her bike. A Rembrandt is hanging down in the Reich. Ajax, Heineken, Van Gogh, Odegaard, and the Ganji. Monday morning we were all half cracked. We dived into the Kaiser Gracht. To fish to sell and to put us on the plane to Dublin, home to the mammy again. What a weekend that we spent in. What a weekend that we spent in. What a weekend that we spent in Amsterdam. Per buona parte a cappella questo weekend in Amsterdam che ci ha raccontato Christy Moore, con anche qualche battuta che magari è difficile da capire, perché l'irlandese è abbastanza particolare rispetto all'inglese, ma comunque il pubblico si è divertito e questo è importante. Il pubblico di Killarney, che il 9 luglio del 2016 vide appunto Christy Moore in concerto, questo weekend in Amsterdam inserito in un album doppio che si chiama On the Road. They came to stand beside the Spanish beat. Andiamo a concludere Città Fujiko Live Club, naturalmente Recorded Today, con l'ultimo brano che ci porterà appunto alla chiusura. Il tutto dai 103.1 MHz, modulazione di frequenza stereofonica di Radio Città Fujiko, nonché sul web, come vi ho già detto, tramite l'apposita app che potete scaricare tranquillamente e gratuitamente dal sito radiocittafujiko.it. A concludere la trasmissione arriva una registrazione effettuata nel 2022 a Pistoia per la serie Io C'ero, me ne vanto. Sono Gov Mule in concerto, la grande band fondata da Warren Haynes e Alan Woody, inizialmente come outfit dell'Alman Brothers Band, che sarà prossimamente su questi schermi, nel 1994. Partirono come trio, sono diventati un quartetto, eccetera, eccetera, eccetera. Hanno fatto un sacco di album live e poi consentono di scaricare i loro concerti a pagamento dal loro sito. Questo è il concerto del Pistoia Blues Festival del 9 luglio del 2022. Sono i Gov Mule che ci dicono che Non c'è amore nel centro della città, un classico della musica rock, è anche il più corto, per cui ve lo faccio subito ascoltare. Vi ringrazio per l'ascolto, sono Gov Mule, ciao a tutti da Nevio. Thank you.